Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata e benvenuti a Magazine 24, appuntamento del sabato e anche della domenica, come sapete, con i settimanali e i mensili italiani e stranieri. Vorrei cominciare questa mattina parlando di futuro, un argomento, come dire, sempre presente. Lo faccio con un mensile che è un po' intitolato al futuro, ha nei suoi cromosomi il futuro. Il mensile è Wired, numero di maggio in cui c'è una interessante intervista a uno scrittore si chiama Gary Steingart. La pronuncia sarà sicuramente difficile, perché questo signore è nato a Leningrado, come ci avverte appunto Wired nell'articolo di Matteo Bordone, ma nato a Leningrado quando ancora si chiamava così, oggi naturalmente si chiama San Pietroburgo, e ancora bambino si è trasferito con i genitori negli Stati Uniti, quindi il suo cognome è una sorta di traslitterazione dal cognome di provenienza. Ancora bambino si è trasferito con i genitori negli Stati Uniti, ha scritto un romanzo, un ulteriore romanzo, perché questo signore Gary Steingart appunto è un romanziere, che si intitola Storia d'amore vera e super triste, ma in realtà è una storia che parla molto di tecnologia, e per questo Wired ha deciso di occuparsene. Il romanzo si svolge in un futuro prossimo possibile, e quindi forse da questo tipo di indicazioni possiamo trarre, dalla capacità di visione, di immaginazione di un romanziere, possiamo trarre qualche indicazione utile per il nostro futuro. Non vi racconto niente della trama, che viene però un po' anticipata da Wired, ma voglio lasciarvi, come dire, il piacere di conoscerla direttamente dal libro. Invece vi riferisco qualcuno dei passaggi di questa intervista che risultano decisamente divertenti, ma direi interessanti, perché dice Steingart che ha immaginato questo mondo in un futuro immediato, in un futuro prossimo, dominato dalla tecnologia personale, un mondo in cui ognuno vive costantemente connesso, insomma non è molto diverso poi da quello che già sta accadendo. Tutti sanno tutto di tutti, compreso il reddito. Un po' segnala Bordone quello che succedeva nell'Unione Sovietica, però in una versione touch. L'uso sovietico della tecnologia, spiega lo stesso Steingart, fa un po' venire in mente 1984 di Orwell, con il governo che cercava di impadronirsi della privacy delle persone, metteva cimici ovunque, intercettava la corrispondenza. Ma quello che è cambiato è che, sono sempre parole di questo scrittore, adesso non serve più il Grande Fratello, perché siamo noi stessi che di fatto forniamo le informazioni, facciamo tutto da soli. Lui immagina che in questo futuro prossimo ognuno di noi possieda una sorta di super smartphone, di super telefonino intelligente, che lui ha deciso di chiamare Apparat, con il quale pubblicizzare, mettere a disposizione la sua identità. Questo apparat è pressoché obbligatorio possederlo nel mondo immaginato da Steingart, e funziona più o meno così, spiega: quando il protagonista entra in un locale, subito vengono identificati i dati anagrafici, anche il reddito di tutti gli avventori. Se qualche avventore non viene identificato, subito ci si allarma, perché potrebbe magari essere un potenziale terrorista. Commenta Bordone: date tempo al nostro odierno disappunto quando ci capita di non trovare qualcuno su Facebook, ed ecco che l'obbligatorietà di questo apparat immaginato dal romanziere diventa meno paradossale di quello che può sembrare. Eppure Gary, pure questo signore che fa lo scrittore, ed è nato nel 1972, quindi è decisamente giovane, sembra un intellettuale europeo vecchio stampo, commenta sempre Bordone, non troppo avvezzo alla socialità digitale. Mi rassicura, sì, ho anch'io la mia pagina su Facebook, ma perché l'ha voluto il mio editore, ci metto gli appuntamenti, le presentazioni, però di mio metto solo il video del mio cane. Però una cosa come Facebook ormai è fondamentale per uno scrittore in America, perché, commenta amaramente Steingart, la gente non vuole leggere libri, direi potremmo anche chiusare, se consentite, vuole leggere anche sempre meno i giornali, parrebbe di capire, e tu devi usare ogni mezzo per convincerli. Oggi è così, sei costretto ad andare da loro che non hanno nessuna intenzione di leggere né te né altri, e dire: guarda qua, questo secondo me forse ti piace. Così salta fuori, prosegue sempre l'intervista Wired, salta fuori che anche per uno scrittore che vive a New York, che è nato nel 72, ci sono problemi legati alla tecnologia, all'informazione, alla nostra disponibilità a metterci a leggere. Più oltre nell'intervista Steingart descrive la sua vita costantemente online, quindi non molto dissimile da quella della costante connessione immaginata dai personaggi del romanzo, spiegando appunto che quando prende un taxi di solito guarda più l'iPhone e molto meno fuori dal finestrino, cosa che è anche parte, credo, di molte esperienze nostre. E infine chiosa con questa frase in cui dice: il funzionamento del nostro cervello sta cambiando, questa tecnologia che abbiamo attorno è fatta per persone con una mente fatta in un altro modo, quella che ho io probabilmente non va bene. E questa è una delle considerazioni che fa appunto Steiner, che immagina un romanzo sulla fantascienza, sul futuro prossimo venturo, un futuro prossimo venturo in cui lui stesso dice fa appunto fatica a identificarsi, fa fatica a sintonizzarsi. Allora, visto che parliamo di futuro, sull'Espresso questa settimana un'altra intervista, però questa volta a Bruce Sterling. Bruce Sterling è uno dei padri della letteratura cosiddetta cyberpunk ed è, diciamo, una delle persone più titolate a immaginare come potrebbe essere il futuro specialmente dei social network, quindi delle tecnologie poi di cui si occupa anche Steingart. Gli chiede Fabio Chiusi sull'Espresso di questa settimana: come cambierà la nostra esperienza di internet? E secondo Sterling, la velocità, la banda, la capacità di memorizzazione incrementeranno radicalmente, e quindi avremo dispositivi sempre più leggeri, sempre più mobili. Alla fine la parola internet sostanzialmente sparirà e la distinzione tra la realtà virtuale e la realtà reale, scusate il bisticcio, perderà di significato, perché di fatto l'una sarà compenetrata nell'altra. Lei ha detto, gli chiede Fabio Chiusi, che Facebook ha i giorni contati. Ora sembra strana questa affermazione per un social network che ha milioni e milioni di utenti nel mondo. Lui risponde: perché è ovvio, consideri i cupi destini dei suoi antenati, e cita Friendster e MySpace. Facebook è un social network basato sull'annuario di un college. Ma perché un social network avanzato dovrebbe assomigliare all'annuario cartaceo di un college? È un ibrido maldestro che è vulnerabile. E dice: allora cosa ci sarà al posto di Facebook tra 10 anni? Gli chiedono: non i blog, che secondo Sterling scompariranno anche più velocemente dei social media, ci sarà qualcosa di nuovo, qualcosa che sia più adatto alle circostanze tecniche di domani, macchine più veloci, macchine più potenti sotto ogni aspetto. E poi i media digitali, quindi anche i giornali online, la versione online dei giornali, non c'è ragione di pensare, dice Sterling, che i media digitali si stabilizzeranno presto, ci mancano ancora le parole per quello che verrà. Insomma, questa è la visione che ha John Sterling, che non vede un gran futuro per i social network, anche quelli di grandissimo successo, vede invece nella avanzata prodigiosa della tecnologia un mutamento continuo. Speriamo che la testa che abbiamo, per riprendere le parole dello scrittore che appunto vi segnalavo prima, la testa che abbiamo riesca a gestire tutto questo. Il dubbio dello scrittore era quello che la testa che ha lui forse non va bene per gestire tutta questa tecnologia, speriamo ci basti per gestire quella immaginata da Sterling sull'Espresso. E c'è una provocazione interessante che vi volevo segnalare, trovata sul Corriere della Sera 7, sul 7 del Corriere della Sera, pardon, cioè sul settimanale che viene accluso dal giovedì in poi al Corriere della Sera, perché in una intervista Massimo Picozzi, che è un criminologo e psichiatra, consulente dell'unità di analisi dei crimini violenti, a un certo punto dice: guardate che secondo me la presenza di internet e dei social network finisce per incrementare i comportamenti violenti degli adolescenti. Dice: ci sono delle patologie e dei linguaggi che noi adulti fatichiamo a comprendere, noi dovremmo studiare meglio la frontiera virtuale delle nuove generazioni, degli adolescenti, perché ad esempio la depressione da mancanza di amici su Facebook, cioè il non avere amici su Facebook, la stima di sé che passa attraverso il click di una comunità digitale, insomma internet è stato anche un acceleratore sono parole di Picozzi, dei delitti sessuali. Subito gli contesta Vittorio Zincone: beh, non faccia il fustigatore, il proibizionista fustigatore dei social network. Dice: no, bisogna studiare. Nel libro che ho scritto con Carlo Lucarelli sui crimini sessuali, che uscirà a ottobre, segnala, c'è un intero capitolo sul cyberstalking, cioè sulle molestie per via cibernetica, appunto per via elettronica. Questa la provocazione che lancia Massimo Picozzi dalle pagine di 7 che avete trovato giovedì con il Corriere della Sera. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24. Stavamo parlando di futuro, ma un po' anche di presente. In realtà eravamo rimasti con questa provocazione di Picozzi, del criminologo Picozzi, che dalle pagine di 7 dice: internet è un acceleratore di crimini a sfondo sessuale. Non sappiamo se le due cose vadano collegate. Sul panorama di questa settimana però si parla di disagi adolescenziali e direi soprattutto di disagi causati da reati. Da un po' di settimane abbiamo visto comparire sui settimanali, sui magazine, delle segnalazioni di statistiche preoccupanti che segnalano appunto sia l'aumento di comportamenti a rischio, come ad esempio l'alcolismo o altri comportamenti, altre dipendenze tra gli adolescenti, ma anche appunto la segnalazione di comportamenti comportamenti illeciti, di reati addirittura commessi appunto nella fascia adolescenziale. Riprende questo tema proprio Panorama già dalla sua copertina, la copertina intitolata Mostri di mamma, è giocata molto sugli ultimi eventi di cronaca. Ricorderete il caso dei quattro ragazzi che hanno, ricorda la stessa copertina di Panorama, massacrato due carabinieri. Ma cosa succede in una famiglia normale che si sveglia con un delinquente in casa? Non solo tormenti e interrogativi, ma tante autoassoluzioni. La colpa è degli altri, la colpa è della società. Cinque genitori, promette la copertina di Panorama, e poi è così all'interno, raccontano le loro storie. Io vi voglio segnalare quello che scrive Maurizio Tortorella, alcuni passaggi di quello che scrive Maurizio Tortorella, aprendo appunto questa storia di copertina che occupa diverse pagine di Panorama di questa settimana. Dice: la violenza giovanile, un tempo caratteristica della società americana, lo ricordiamo nei film anche di decenni passati, anche del secolo scorso, oggi è un fenomeno anche europeo. Ogni giorno, in base a uno studio che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato a fine 2010, nei paesi dell'Unione Europea muoiono per l'aggressione di un coetaneo almeno 40 giovani tra i 14 e i 29 anni, 4 dei quali sono vittime di accoltellamenti. Si tratta di 15.000 morti ogni 12 mesi. Il fenomeno è particolarmente grave nei paesi dell'ex Unione Sovietica e nell'est del continente europeo, ma è in rapida crescita soprattutto in Italia, in Belgio, in Lituania e in Ungheria. Sono cifre e tendenze che sicuramente non stupiscono, commenta sempre Tortorella, i frequentatori della materia, ma quello che turba invece è l'impreparazione delle famiglie. È vero, alla fine degli anni 60, per tutto il decennio successivo, la violenza giovanile è stata un esercizio frequente nei licei, nelle università italiane, ma quello che accade oggi è diverso. Non che fosse più giustificato quel tipo di aggressività cosiddetta politica, ci mancherebbe. Oggi però sembra ci sia un'assenza di valori, un'assenza di regole certe o di un insegnamento, e tutte queste assenze sono poi protagoniste nello scatenare la violenza. Non sappiamo se ci sia una correlazione diretta tra queste mancanze di tipo genitoriale, di tipo familiare e comportamenti violenti che sembrano più frequenti anche nella cronaca nera appunto dei quotidiani, anche le notizie che ascoltate alla radio. Però di dipendenze si occupano, di dipendenze giovanili e adolescenziali si occupano anche altri settimanali, altri mensili. Noi scegliamo una segnalazione da Vanity Fair. Vanity Fair ci segnala che è in uscita un volume di Ulisse Mariani e Rosanna Schiralli, sono marito e moglie che si occupano appunto di disagi adolescenziali. Il titolo è Nuovi adolescenti, nuovi disagi, e poi appunto dai social network ai videogames allo shopping compulsivo, quando le abitudini diventano dipendenze. Anche qui torna il tema quindi del social network, di internet come momento sì di contatto ma anche di possibile occasione di frustrazioni. E se ne occupano su Vanity Fair in questa intervista per segnalare che appunto oggi quando un adolescente denuncia un disagio di qualunque entità, nel 98% dei casi va nella direzione di una dipendenza. Questo perché, a giudizio appunto di Schiralli e Mariani, non ci sono conflitti di tipo generazionale come un tempo, ma i ragazzi cercano l'autonomia nella famiglia, non dalla famiglia. Un tempo quindi c'erano disagi del tipo depressione e ansia, oggi meno, ai rischi tradizionali invece si aggiungono quelli legati all'uso del computer e dei videogames. Naturalmente sulla facilità con cui gli adolescenti sviluppano poi delle dipendenze c'è una grossa responsabilità dei genitori che dovrebbero, per evitare questo, accompagnare i figli, sono ancora le parole che trovate su Vanity Fair, attraverso un'educazione che trasformi la pulsione in una emozione. Dice, faccio un esempio di fantasia, c'è il piccolo che è il re della famiglia, a un certo punto comincia a uscire dal suo impero di casa e si innamora di una tredicenne, una sua coetanea, ma lei non lo vuole, è una botta grossa. Cosa fa? Va ad aprire la sua valigia della sicurezza, ma non ha strumenti per resistere, per gestire queste frustrazioni, perché è sempre stato accontentato. E a quel punto, se per caso si accorge che c'è qualcosa che gli allevia, l'angoscia, il gioco è fatto e non c'è informazione che tenga. Quindi anche informare sui rischi che possono derivare dalle dipendenze dall'alcol e dalle droghe è una cosa che può funzionare fino a un certo punto. Il problema delle dipendenze, spiegano sempre Schiralli e Mariani, è avere o non avere un'alternativa, cioè essere aiutati a crescere. Crescere, allora cambiamo completamente argomento, parliamo di l'Italia che non cresce, perché il Sole 24 Ore ha condotto in queste settimane un'inchiesta in 20 puntate, dove appunto si ha cercato di investigare, di indagare, di spiegare i motivi per i quali l'Italia appunto non cresce. È in uscita, e lo troverete da lunedì in edicola, un instant book, un volume che raccoglie non solo questi articoli ma anche tutta una serie di considerazioni, di richieste che vengono appunto dal mondo delle imprese. Quello che vi voglio segnalare è che all'interno di questo articolo in realtà ci sono delle analisi molto profonde sui motivi del ritardo appunto italiano, ritardo anche nel cogliere la ripresa, come sappiamo, come leggiamo tutti i giorni, come sentiamo tutti i giorni alla radio, e tra questi motivi appunto vengono identificati i vari grandi argomenti: il problema del ritardo del mezzogiorno, il problema del malfunzionamento della giustizia, specialmente la giustizia civile, che è appunto poi la vera giustizia negata del nostro paese, la gestione deficitaria, sicuramente non adeguata, dell'immigrazione e così via. Tutta una serie di articoli in 20 puntate, di domande, di analisi, che trovate in edicola, ripeto, troverete in edicola meglio da lunedì prossimo. Allora, brevissimamente, prima di concludere questa puntata, all'interno di questo volume di cui vi dicevo, che troverete da lunedì, uno dei motivi per cui non si cresce è anche la gestione dell'energia. In queste settimane, con la vicenda di Fukushima, con tutti i ripensamenti, non solo italiani ma anche di altri paesi, sui piani di sviluppo del nucleare, bene, il tema dell'energia è tornato prepotentemente alla ribalta. Di energia si occupano diversi dei settimanali, dei mensili. Io vi voglio segnalare una bella storia dell'energia atomica che sta su Focus Storia di questo mese, di maggio, dove appunto la storia dell'energia nucleare viene ripercorsa nei suoi vari aspetti, quelli bellici ma anche quelli dell'uso civile. È un lavoro molto interessante che trovate, ripeto, su Focus Storia di maggio. E con la storia dell'energia atomica si conclude questa segnalazione brevissima della storia dell'energia atomica, si conclude la nostra puntata di oggi. Grazie ad Anita Panizza che mi ha aiutato a prepararla, grazie a Pietro Lacorte questa mattina in regia. Se volete scriverci, magazine24@radio24.it. Noi in ogni caso torniamo domani mattina. Buona giornata a tutti.